26. Quando Joseph aveva perduto Peggy, il conforto di chi lo amava aveva attenuato la sofferenza. Molly e Sir William, Tekari Yoga e gli anziani del villaggio, Margaret e le matrone del clan, gli amici Sakiena Kenta e Kanata Wakon, il reverendo Stewart, tutti avevano avuto le parole giuste per il guerriero rimasto vedovo. Joseph aveva sognato forte, aveva affidato a Molly i bambini e la vecchia madre ed era partito per Rokwaga. Era tornato con Susanna e la vita era ripresa. A Oswego, invece, Guy aveva il burbero conforto di Daniel Klaus, John Butler e Cormac MacLeod e un capitale di frasi di circostanza dono di altri membri della spedizione da investire nel tentativo di non cadere a pezzi. Joseph pensò alla Croix, anch'egli padre e marito straziato, reduce da una tragedia ancora peggiore, affrontata in totale solitudine. L'uomo dei boschi non aveva commentato la morte di Mary e del bambino. Aveva trascorso ore seduto sulla riva del lago e adesso era lì, tra la folla. Il volto non tradiva emozioni, ma tra gol esterno doveva avere una tempesta di ricordi. Il funerale della sposa di Ura Quadirà univa le anime della lunga casa per un ultimo giorno. La morte di un bimbo, destinato a chiamarsi William Johnson, nipote di Warra Ghigliaghei, era un'incudine caduta dal cielo a schiacciare tutto il resto. La disgrazia aveva disperso sospetti e rancori, li aveva spinti da parte. Guy Johnson era solo un capofamiglia colpito da un fulmine, stordito, rimasto con 3 figlie e un viaggio da compiere. Joseph e John Butler scavarono e calarono la bara. Tekari Yoga e piccolo Abramo pregarono il padrone della vita. Le lacrime di Esther, Judith e Sara infradiciarono la sottana della zia, Nancy Klaus, che piangeva sulla spalla del marito. La levatrice, Lydia Devon, pregava a mani giunte. La fossa si riempiva di terra e Guy Johnson non riusciva ad alzare gli occhi dai propri stivali. Joseph lo guardò e provò pena per lui. I cristiani recitarono il Padre Nostro in inglese, in latino, in Mohawk, in Oneida. La Babelle di Loch Irlanda salutò Mary Johnson, seppellita col suo bimbo tra le braccia. La Croix terminò la preghiera. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. E si segnò. Joseph lo vide avvicinarsi a Guy e appoggiargli una mano sulla spalla. Il commissario sollevò il capo, sorpreso, gli occhi lucidi. La Croix non disse nulla. Non c'era bisogno di parole. L'altro annuì. L'uomo dei boschi si allontanò. Guy inspirò, scosse le spalle come percorso da un brivido, infine si mosse in direzione di Nancy e le bambine. Oggi Le Grand Diable ha scaldato il cuore di un uomo, pensò Joseph. I battelli fendevano le acque placide a vele spiegate, ma il vento non era sufficiente. Bisognava impegnarsi sui remi. Il cielo era limpido, solcato da poche nuvole immobili e bianchissime, riflesse sullo specchio del lago. A bordo nessuno parlava. Guy Johnson sedeva sulla barca di testa, lo sguardo perso nella scia dei remi. Dopo le esequie non aveva più detto niente, nemmeno le figlie, lasciate a Oswego con la zia Nancy. Sul pontile Esther aveva guardato i battelli allontanarsi. Le sorelle dormivano, ma lei era sgusciata fuori dalle coperte per vederli partire. Guy le aveva rivolto a fatica un cenno di saluto, senza ottenere risposta. Il primo raggio di sole si era riflesso nei capelli d'oro della ragazzina mossi appena dal vento. Era rimasta lì, immobile, mentre la nebbia del lago la cancellava piano alla vista. Guy aveva continuato a sentirne lo sguardo, a largo, quasi che gli occhi chiari della figlia potessero raggiungerlo anche lì, o fino in capo al mondo. Aveva pregato, a bassa voce, per la moglie, per il figlio nato morto e per se stesso. Aveva chiesto perdono a Dio, padre severo che sembrava averli abbandonati. Aveva chiesto perdono a Esther, sforzandosi di comprendere la propria colpa. Si fece coraggio. Aveva una spedizione da guidare e battaglie da combattere. Il Canada era là ad aspettarlo. Doveva sopportare il dolore, il peso sulle spalle e gli scricchiolii del corpo. Andare avanti.